and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. E bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e da Drago. Bentornati a Chiedo Asilo, ma anche bentornati all'asilo vero e proprio, certo. Perché è da un asilo che si fa un programma per i bambini, coi bambini, sui bambini, sui bambini, tra i bambini. Però è anche un programma per adulti da un certo punto di vista. No, quali adulti? Non ci sono più gli adulti. Ma infatti ci stavo arrivando, Kappa. Questo programma ha una storia, una genesi un po' strana. In pratica, raccontarla. Sì, Kappa e io volevamo fare abbiamo presentato un numero zero qui a Radio 24, un programma per bambini. Solo che quando l'hanno sentito, quelli di Radio 24 erano convinti che fosse un programma per adulti. E quindi ci siamo resi conto che ormai è inutile fare distinzioni tra adulti e bambini, perché è tutto desolatamente uguale. No, ma non c'è niente di desolato. Ma è bellissimo. Com'è bellissimo? Ma tu sei contento di vivere in un paese in cui a 30 anni si va in TV tutti lampadati e palestrati a far finta di corteggiare una ragazza? Vabbè, sarà mica tutto qua. Sei contento di vivere in un paese in cui non si può andare allo stadio normalmente perché ci sono bande di adulti che fanno casino peggio di una classe della scuola media, con la differenza che allo stadio quelli ci vanno armati? Ma io il calcio. Tu il calcio. Allora, sei contento di vivere in un paese in cui a scuola i genitori e i figli sono alleati contro i professori e durante i colloqui volano le botte? Vabbè, ma a proposito di scuola, qui è giusto, lo sai che oggi in molte regioni italiane riaprono le scuole, quindi parliamo di questo, dai. Oggi è il giorno della rentrée, come si dice in Francia. Ma come oggi? Oggi. Ma allora perché non siamo qui già da una settimana, scusa? Perché qui è un asilo, no? Si rientra prima, rentrée anticipée. Ok. Quindi oggi, primo giorno di scuola, chissà com'è andata, ad esempio, con i compiti delle vacanze. Questo è interessante. Visto come stanno le cose in Italia sarà un macello, perché per via dell'infantilismo italiano i genitori avranno insegnato ai figli che i compiti delle vacanze sono una rottura e che è meglio copiarli dall'unico cretino che li ha fatti. Giusto. No, come se i compiti delle vacanze uno li facesse per far piacere ai professori. Ma certo, perché cosa sono? Ma scusa, se vacanza è vacanza. Tu quando fai vacanza mica ti porti dietro il lavoro sotto l'ombrellone, il computer, anzi stacchi il telefono, non leggi neanche i giornali. Però scusa, gli studenti devono tenersi allenati. Sennò dopo 3 mesi di bagordi tornano a scuola come tanti asini. Ma no? Sono tutte palle, guarda. No. Leggi il Corriere della Sera e trovi una frase così, pronunciata da un illustre pediatra, mica da me. Durante le vacanze i bambini devono giocare, stare coi nonni e vivere a contatto con la natura fuori dalla città. E fare i compiti delle vacanze. Ma no, sempre lo stesso illustre pediatra dice che i compiti delle vacanze sono inutili e dannosi. Ma no. Perché sì, perché i ragazzi li fanno controvoglia, con la TV accesa, con l'iPod nelle orecchie, cioè con le cuffiette, perché l'iPod nelle orecchie è un po' dura, è una metonimia, ma insomma. Sì, ma chi sarebbe questo pediatra fannullone? Si chiama Italo Farnetani e insegna all'Università di Milano Bicocca, quindi... Ma sei sicuro che non insegna all'Università Cinema Multisala della Bicocca? Ecco, vedi che scateni il tutor. Vabbè, ma cosa ho detto adesso? Perché si aziona sito il tutor? Si aziona perché sei andato fuori tema. Giusto. Cosa c'entra adesso il Cinema Multisala della Bicocca? Vabbè, niente, infatti, torniamo al tema originario, cioè i compiti delle vacanze. Che, tra l'altro, il ministro Bambina Gelmini è una convinta sostenitrice della cara vecchia scuola di una volta. Con i 5 in condotta, il maestro unico e naturalmente i compiti delle vacanze. Sì. Anche se ormai nessuno crede più a questi sistemi della vecchia cara scuola di una volta, e chissà perché. Beh, chiedilo a lei. A chi? Alla bambina Gelmini. È lì, chiediglielo. Bambina ministro Gelmini, a che cosa è dovuta la sfiducia generale nei sistemi della cara e vecchia scuola di una volta? Al libro bianco sulla scuola. Al libro bianco sulla scuola. Scritto sotto l'egida dei ministri. L'egida dei ministri. Ma cosa dici? Ma dai, ma vedi, non sa neanche l'italiano. Vabbè, ma per forza, il ministro Bambina Gelmini in aula non sta mai attenta e a volte fa arrabbiare anche il bambino Fassino. Vabbè, ma quello lì fa sempre il primo della classe. Anche il ministro della pubblica istruzione vorrei che ci desse retta. Lei tutto fa meno che seguire la discussione. Ora questo è inaccettabile. Sì, vedi? Così è inaccettabile. È inaccettabile, non sta attenta. Non è inutile che faccia così. Così lo faccio io. Così sa. Come? Infatti lei gestacci. Ha il dovere di ascoltare quest'aula. Vedi? Lei ha il dovere di ascoltare quest'aula. Lei non si può permettere, può permettere Il bambino Fassino, di non però. Rispettare l'aula, perché lei risponde a quest'aula dei provvedimenti che prende. E adesso bambini, ricreazione, andiamo. Cos'è adesso? Come cos'è? La ricreazione? Ci svaghiamo, no? Ho portato la scatoletta sonora. Ma cos'è? La mucca in scatola? Che la ma ti sembra una mucca questa? Ma sei sordo, senti? Sì, sono sordo. Aspetta, Una mucca, scusa. Ma che mucca? Cos'è? È una pecora, no? Ma figurati, una pecora. Se fosse una pecora dovrebbe fare... Bravo. Questo così. Qua è lo spirito giusto per affrontare la ricreazione. E invece finalmente. Purtroppo no, non possiamo fare perché? Tutta la trasmissione perché dobbiamo fare l'intervista del lunedì. Oh, ma sta mania di fare le interviste ai bambini, dai. Cappa, per forza, siamo su una radio giornalistica. Ma cosa no, vuoi fare? No, non è giornalistica, è una radio news and talk. Appunto, nelle radio news and talk le interviste sono importanti. Dipende da chi intervisti. Vabbè. Però, scusa, delle volte l'intervista è quella che ti fa proprio cambiare canale. Alla radio poi che non si cambia mai canale. Non si cambia mai. Ma sì, dai, quelle interviste al telefono, con l'intervistato che non ha campo, vabbè, che non sente. Sì, tranquillizzati, perché non è il nostro caso. Noi intervistiamo i bambini che sono qua in questo asilo. Quindi, tipo quello lì, che poi è sempre il solito. Bambino Alberto! Ah. Di nuovo qui, questi microfoni del Menga. Dai, scusa, bambino, se siamo giornalisti, anzi siamo news and talk, com'è che si dice, capo? Siamo... Lavoriamo per la radio, senza microfono non si può fare la radio. No. Dai, su, sei in diretta nazionale, cerca di essere meno scontroso, dai, su. Io? Scontroso io? Beh. Ma io non sono scontroso, io sono fatto così. Poi, non so se per voi essere così come sono io vuol dire essere scontroso. Ecco già, questa risposta denota già una certa scontrosità. Quindi passiamo oltre e andiamo con la domanda che dovevamo fare. Qual domanda, è la domanda? Questa interessantissima. Allora, Alberto, hai fatto i compiti delle vacanze? Questa è la domanda. Ma quali compiti delle vacanze? Non lo so, c'è scritto così. No, che stupidi, siamo all'asilo, capo, non a scuola. Tu hai scritto in effetti all'asilo che compiti si danno? Bravo, non so, dai, rotoliamoci nel fango, tutti insieme, no, nascondino. Ma no, vabbè. Farsela addosso. Uè, non offendiamo, Cosa? Farsela addosso? No, ma su queste cose non si scherza mica. Io non me la faccio addosso almeno da 2 settimane. Però complimenti, Bravo, bravo Albertino, bravo. No, perché io ho capito com'è l'andato con voi giornalisti. No, news and talk. No, niente, news and talk. Ma vai avanti, Albertino, dai. Voi volete semplicemente che uno vi riempia 5 minuti di programma alla radio con qualcosa di sensazionale, tipo farsela addosso in diretta radio. A parte che non si vede in radio. E poi no, e poi io farei a meno, è Drago. No, che ma io, le ma balle, guarda che per me un bambino vale l'altro, è lui che è sempre qui per caso dalle nostre parti. Non vorrei che lo facesse apposta per poter andare alla radio e vantarsene così con i suoi amici in giro all'asilo. No. No, ma infatti a me non dispiace fare la radio. Ecco, hai visto, K, è per quello, lui adesso... Però vorrei proporvi un piccolo business. Un business? Sì, ma piccolo, Piccolo. Un piccolissimo business. Sentiamo questo piccolissimo business. Io mi faccio intervistare e voi mi date del grano. Del grano, dei soldi, no? Mi pagate. Ma no, non ma si guarda, può che veramente pagare, non credo che siano previsti i compensi per gli intervistati. Infatti, no, assolutamente. No. Ah no? No, no? Allora fatemi vedere la liberatoria per i miei interventi precedenti. No, ma quale liberatoria? Appunto, quale liberatoria? Scusa, ma serve la liberatoria, Drago? Certo, ma no, ma... Come certo? O i grani o la liberatoria. E di qui non si scappa. No, vabbè, cappa, a me sti bambini stanno già un po' rompendo le palle. Ma è colpa tua, scusa. Ma sei tu che hai la fissa dell'intervista. Ma vabbè, sono quelli della radio, hanno detto potete fare le interviste senza liberatoria, eccetera, eccetera. Ma infatti le potete fare le interviste senza liberatoria. Infatti, vedi? Però cacciate il grano. No, ma io non ce li ho i soldi, Drago, li tiri fuori tu i soldi. Il budget non consente proprio, niente. Consente. Mi dispiace, ma le cose stanno così. E se no scatta la denuncia. Ma no, ma che denuncia, no. Drago? Adesso te la vedi tu, sta roba. Quale denuncia? Dai, la liberatoria, la il lavoro minorile. No, avete trasmesso la mia voce senza il mio permesso e senza darmi compensi. Cioè, in pratica avete fatto lavorare me al posto vostro e io l'ora di denuncia. Ma no, scusa. Non ho capito, Albertino. Succede lo stesso con tutti quelli che si fanno intervistare per radio ogni giorno. Tu cosa credi? Che le centinaia di bambini esperti che sparano cazzate nei talk siano tutti pagati? Ma nemmeno uno. Allora cosa vuole questo qui? Infatti, non prendetemi per il culo, Perché una cosa sono gli esperti che si fanno pubblicità parlando alla radio. Un'altra sono io. Io mica devo farmi pubblicità. Ma no, invece sì, fatti pubblicità. No, dove vai senza pubblicità oggi? Ma dai, capo, è un bambino dell'asilo. Mica è uno di quegli esperti anche seri che pur di andare alla radio rispondono a domande stile esame di terza media, tipo il ritorno dalle vacanze può causare tristezza? Stanno lì e rispondono. Ci va l'esperto, ci va lo psicologo. Uno che ha studiato tanti anni, si è laureato e poi risponde alle domande che se anche le chiedi al primo che passa è uguale. Domanda: vero che finite le ferie stai così male che ti ammazzeresti? Risposta: eh sì, finita l'inchiesta. Ci va l'esperto, scusa. Vabbè, dai, Tito, il tutto. Stiamo andando fuori tema, quindi. Sì, un pochino, ma insomma. Parlare dei compiti delle vacanze. E invece forza. Stavamo parlando di bambini esperti, di cose di cui siamo tutti esperti, dai. È vero che la Terra gira intorno al Sole? È vero che 1 + 1 = 2? È vero che le emorroidi fanno molto male? Dai, Tito. Allora, K, Albertino, il tempo a nostra disposizione è scaduto. Pazienza per l'intervista, la facciamo la prossima volta. E grazie a tutti, ciao. Cosa ma? E la liberatoria? No, ci pensiamo, ti facciamo sapere. Ciao, ciao, ciao Albertino, ciao. Ciao. Ma e dove andate? Se ne vanno. Vabbè, hanno parlato tanto e alla fine non mi hanno fatto firmare né la liberatoria e nemmeno mi hanno dato il grano. E non è giusto. Io per parlare alla radio voglio grano. Niente grano e scatta la denuncia. Torniamo domani, stessa ora, stesso asilo. E scriveteci a chiedoasilo@radio24.it. Yeah.